Partito delle Stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 20 giugno 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. I contatti 333-180-9494 per inviare i vostri sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per inviare le vostre mail. Anche questa volta siamo in diretta video su Ustream. Beh, quest'oggi parleremo di intelligenza, ma non di un'intelligenza particolare, parleremo proprio di intelligenza degli animali. E ne parleremo col professore emerito dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il professor Danilo Mainardi. Buongiorno professor Mainardi. Buongiorno. Professor Mainardi, noi all'inizio abbiamo le 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione. E allora la prima domanda ovviamente che le voglio fare per poi esplorare esattamente che cos'è l'intelligenza, l'intelligenza umana, l'intelligenza degli animali, e che cos'è l'intelligenza, come la definirebbe? Guardi, è una delle definizioni credo più difficili, perché l'intelligenza è un fenomeno molto complesso. Ci sono definizioni molto diverse a seconda di chi le fa, e sicuramente però fino a una ventina di anni fa si pensa, quando si diceva intelligenza era l'intelligenza umana, per cui noi in quelle definizioni ci prendevamo come misura delle cose in definitiva. Io devo dire che abbastanza recentemente ho avuto molti contatti con gli studiosi di intelligenza artificiale e mi sono trovato benissimo, perché sono gente in qualche modo molto pratica, molto operativa, e per loro produrre comportamenti intelligenti vuole dire produrre comportamenti che poi possono anche essere soluzioni di problemi, ragionamenti anche abbastanza complicati, ma per loro vuole dire produrre un qualche cosa di utile e di, loro utilizzano questa parola che poi magari andrà spiegata un po' meglio, di adattativo, cioè c'è dentro un'ottica darwiniana evolutiva, cioè produrre qualcosa che poi la selezione naturale selezionerà a favore, farà andare avanti, qualcosa di adatto per la sopravvivenza di dell'individuo che produce questo comportamento cosiddetto intelligente. Professor Mainardi, abbiamo messo molta carne al fuoco, adesso andiamo ad ascoltarci un pochino di musica, poi torniamo in studio per la parte centrale della trasmissione, ovvero la parte in cui parleremo dell'intelligenza degli animali e soprattutto parleremo del suo libro uscito da poco, L'intelligenza degli animali, per la Cairo Editore. Take you to the between you and I. I'm getting tired of being just another surprise. And then I fly, fly, fly. Yeah, I'm so high, high, high. Don't you know you're... Professor Mainardi, la prima cosa che si vede da questo libro, che ho letto tutto d'un fiato, e sembra essere scritto anche lui tutto d'un fiato, nel senso che molte volte lei fa degli incisi, va avanti, torna indietro. È stato veramente scritto tutto d'un fiato o è stato scritto a pezzi? Ma guardi, io, per quanto ho potuto, potrei dire che è stato scritto tutto d'un fiato. Direi che è quasi un lungo ragionamento che io ho fatto, e è stato molto utile anche per me stesso, devo dire, come credo che spesso capita quando si scrive un libro, perché insomma l'idea che mi ero andato facendo, che mi sono andato facendo, è una vita che studio il comportamento degli animali, è che in definitiva si potrebbe dire che tutti gli animali sono intelligenti, partendo da quello che ho detto prima quando ho cercato di definire che cos'è l'intelligenza, studiando anche certi animali molto semplici, animali che noi mai definiremo intelligenti, ma però se si vede come rispondono alle situazioni ambientali a cui, o di tipo anche sociale, cui si trovano, con cui si trovano a confrontarsi, le risposte sono spesso molto raffinate, molto, diciamo, quelle che noi chiameremmo intelligenti se fossimo noi umani a darle. Il problema, appunto, perché siamo noi che siamo la misura di tutte le cose, è che questi animali molte volte, anzi spessissimo, non hanno la consapevolezza di quello che fanno, ed è anche per quello che mi sono trovato bene con le persone che studiano l'intelligenza artificiale, perché anche un robot non ha una vera consapevolezza di quello che sta facendo, no? Per cui è come un giudizio dato dall'esterno, è intelligente quello che funziona bene, è quello che alla fine non produce un abbassamento delle mie probabilità di vivere bene o addirittura di sopravvivere. Professor Mainardi, la interrompo un attimo, perché lei parlava di intelligenza artificiale, quindi lei parlava fondamentalmente del cervello, quindi dell'intelligenza intesa come una serie di azioni atte a risolvere un problema, cioè il cosiddetto problem solving. Perché lei cerca di argomentare in tutto il libro che l'intelligenza non è solamente propria dell'essere umano, ma è propria anche degli animali? Però andiamo ad esplorare nel corso della trasmissione, ma in due parole esattamente, per quale motivo lei dice che l'intelligenza è propria anche degli animali? Beh, diciamo che perché ragiono in un'ottica evolutiva. Noi in definitiva siamo diventati umani attraverso tutta una serie di passaggi, e non è che l'intelligenza ci sia piovuta addosso di colpo quando è nata la specie umana. C'erano già i presupposti di altre specie, per cui un'intelligenza in vario modo omologa, anche talora spesso molto, diciamo, molto simile alla nostra, perlomeno come determinismi, noi lo troviamo negli altri primati, però troviamo anche delle intelligenze che si sono evolute indipendentemente dalla nostra, ma il punto è questo, insomma, noi ci siamo evoluti gradatamente per diventare quello che siamo, e così come la nostra mano è un passo evolutivo da quella che è la mano di altri primati o di altri mammiferi, o se andiamo indietro anche di altri vertebrati, lo stesso vale anche per questa capacità composita, come dicevo, perché nell'intelligenza ci sono aspetti genetici, aspetti esperienziali, c'è dentro la memoria, ci sono dentro tante cose che rendono difficile la definizione, e c'erano già anche prima. Professor Mainardi, a un certo punto del libro, più o meno a metà del libro, lei parla di un'esperienza che lei ha avuto con i ratti, oppure di un'esperienza che le hanno raccontato con i ratti. Fino a una certa data i ratti venivano, diciamo, dissetati con una bottiglia d'acqua messa al contrario, messa a capovolta. Poi a un certo punto i ratti venivano dissetati con un sistema per cui i ratti dovevano premere un pulsantino con il muso, e quindi uscivano dei piccoli spruzzetti d'acqua. Ora, alcuni ratti sono sopravvissuti, alcuni ratti non hanno capito il significato del giochino e sono morti. Ora, la generazione successiva a quei ratti è una generazione che aveva questo imprinting, cioè l'imprinting di riuscire a dissetarsi. Ora, che ruolo ha l'imprinting nell'intelligenza e quindi che ruolo ha l'imprinting nella sopravvivenza di una specie? Beh, guardi, nel caso specifico non era esattamente un imprinting, era un'altra forma di apprendimento, perché l'imprinting avviene soltanto molto precocemente nella vita degli animali, però il discorso vale sia per l'imprinting che per altre forme di apprendimento, purché questo apprendimento sia un apprendimento sociale, perché quegli animali che morivano perché non avevano fatto la scoperta che bisognava premere un qualcosa per ottenere da bere, non erano in un gruppo, erano ciascuno in una gabbietta isolata. Essendo in un gruppo bastava che uno facesse la scoperta e gli altri potevano imitarla, e in questo modo avevano anche loro la soluzione. È quello che si chiama apprendimento sociale, che poi è l'origine di tutti i fenomeni culturali, cioè in questo modo la scoperta non rimane più un evento, un fatto del singolo, proprietà del singolo, ma diventa proprietà di un gruppo e può essere trasmessa poi da una generazione all'altra. Sono quei fenomeni alla base di quella che per noi diciamo è il nostro modo di stare al mondo, cioè la trasmissione culturale, l'evoluzione culturale. Noi abbiamo pochissima sapienza degli istinti, non abbiamo quasi più istinti e tutto il nostro comportamento è trasmesso attraverso varie forme di apprendimento sociale. La scuola è il più classico, il più istituzionalizzato, no? Quindi l'uomo è un animale sociale, quindi ha un'intelligenza collettiva, possiamo dire. Ha un'intelligenza collettiva, anzi direi straordinaria al giorno d'oggi, perché se noi pensiamo, anzi ci sono due cose importanti a cui possiamo fare riferimento. Una intanto è questa: poniamoci la domanda di quante cose noi sappiamo perché le abbiamo scoperte noi facendo un esperimento, o quante invece le abbiamo apprese perché qualcun altro ce le ha raccontate. Quasi 99 le abbiamo scoperte perché ce le hanno raccontate. Perché ce le hanno raccontate, e questo è appunto perché la trasmissione culturale ormai per noi è più importante che apprendere individualmente. E la seconda domanda potrebbe essere questa: di tutte le cose che sa la nostra specie, cioè quello che in un'ipotesi che poi sarebbe un'ipotesi molto riduttiva, tutto ciò che c'è scritto dentro nella più importante enciclopedia, quante noi ne conosciamo? Pochissime, cioè tra la sapienza della specie e la sapienza dei singoli individui c'è un divario enorme, straordinario. In realtà noi, cioè le persone normali, sanno che se si schiaccia un bottone si accende il televisore o si accende la luce, ma non sappiamo bene che cosa succede dentro in questo meccanismo, tanto per dire. Per cui insomma anche le persone più cosiddette colte sono molto ignoranti rispetto a tutto ciò che la specie possiede come suo capitale di sapienza. Professor Mainardi, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e continuiamo la nostra chiacchierata. Insecure. Believe I- Professor Menatti, per la mia gioia, a un certo punto del libro lei cita Woody Allen con un film di Woody Allen che è La Rosa Purpurea. Sì. Ora ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo di questo film, questo andiamo in studio, perché in realtà il discorso della Rosa Purpurea, cioè di questo film, è stato fatto per spiegare qualcosa. È stata una serata meravigliosa. Anche per me. Dove sono tutti gli altri? Oh, non lo so, si staranno ancora dando alle danze. Perché ha importanza, io volevo averti sola. Com'è bello qui. Oh, il telefono bianco. Sognavo di avere un telefono bianco. I tuoi sogni sono i miei sogni. Per tutta la vita io mi ero chiesta come sarebbe stato da questa parte dello schermo. Vedi laggiù la città che si sveglia? Mm-hmm. Basta che tu lo chieda, è tua. Il mio cuore batte così forte. Professor Menatti, a un certo punto di questo film Tom Baxter esce fuori dal film e si innamora realmente, quindi esce fuori dallo schermo. Lei esattamente perché ha citato questo film di Woody Allen all'interno del libro? Perché è abbastanza strano, un libro scientifico, un libro di che parla di intelligenza e che poi cita Woody Allen. Oddio, Woody Allen mi sembra già abbastanza un simbolo di intelligenza, ma il significato era totalmente diverso. Woody Allen è certamente molto intelligente e a me capita spesso di citarlo dei miei libri. In questo caso però quello che è molto, diciamo, che mi serviva è il far vedere che quando un personaggio, una persona in qualche modo vive all'interno di una pellicola, di un film, potrebbe essere lo stesso anche di un documentario televisivo se parliamo di un animale, inizia una sua evoluzione particolare che è diversa dall'evoluzione che avrebbe se vivesse nella vita vera. Per cui questo personaggio, quando magicamente esce dallo schermo cinematografico e si innamora di una ragazza della vita vera, e lei si innamora di questo personaggio che prima avevo visto sullo schermo, si vede che la cosa non funziona perché le persone sono diverse, cioè c'è stata un'evoluzione che le ha rese diverse. E questo qui è un discorso, fa parte di quel lungo ragionamento che dicevo prima, che in realtà noi molte volte gli animali non riusciamo a comprenderli per quello che sono, non ci piacciono per quello che sono. Quando produciamo i documentari sugli animali, in qualche modo imponiamo loro un qualche tipo di evoluzione, per cui se poi noi confrontiamo questi animali dei documentari con gli animali veri, scopriamo che gli animali dei documentari non sono più gli animali veri, sono qualche cosa di diverso, perché non sono più selezionati dalla selezione naturale, ma sono selezionati da quel diabolico meccanismo moderno che è il telecomando, per cui se a un certo momento ci annoiano, non ci piacciono, noi schiacciamo il telecomando, vediamo qualche cosa d'altro, e allora quei comportamenti lì che avrebbero fatto nella vita vera non li fanno più, perché è importantissimo mai abbassare l'indice d'ascolto. Mi ha fatto molto sorridere quando ha fatto l'esempio del leone, che il leone normalmente è un animale infatti multisfaccettato, però noi lo vediamo sempre o che combatte o che fa sesso, oppure che o che gioca con i cuccioli, perché sono le cose, insomma, l'aggressività, l'infantilismo e la sessualità sono tre argomenti che piacciono molto agli uomini, in questo caso ai telespettatori, e di conseguenza quando poi i documentaristi fanno il montaggio di quello che hanno girato, privilegiano, anzi poi tra l'altro io avevo fatto fare anche un'analisi comparativa tra documentari inglesi e documentari americani, cioè la BBC da un lato e il National Geographic, e si è visto che anche i gusti degli americani sono diversi dai gusti degli inglesi, per cui c'è anche un'evoluzione, diciamo, all'interno dei differenti documentari. E questo qui è tutto un ragionamento proprio per farci capire che noi tendiamo in qualche modo a giudicare gli animali in un'ottica un po' troppo umana, per cui dicevo, più che comprenderli, li fraintendiamo. Senta, a proposito di fraintendimenti e quindi a proposito di visione umana degli animali, c'è un punto in cui dice: perché se una diga la fa un uomo è una diga artificiale, mentre se una diga la fa un castoro è una diga naturale? Volevo che spiegasse questo argomento, perché stiamo parlando sempre di dighe, eppure una la costruisce un animale, l'altro lo costruisce un altro animale che siamo noi. Ma sì, certo, infatti è un grosso problema, perché in realtà se si ragiona proprio si ragiona sul serio, cioè usando la ragione, questa differenza animale tra naturale e artificiale non dovrebbe esistere, perché in realtà anche la diga fatta dall'uomo è fatta, si potrebbe dire sì, ma è fatta attraverso la sua cultura, ma la cultura che noi possediamo fa parte della nostra natura, per cui insomma diventa un ragionamento abbastanza filosofico, però in realtà da un punto di vista puramente teorico non dovrebbe esistere questa dicotomia tra il naturale e l'artificiale. Certo è che nel momento in cui noi chiamiamo tutto naturale, poi la parola non ci serve più a niente, per cui pragmaticamente forse si può anche mantenere questa differenza tra ciò che è naturale e ciò che è artificiale. Senta, le voglio fare un'altra domanda: fra intelligenza e istinto qual è proprio la relazione, cioè qual è la più, tra virgolette, vicina all'idea di intelligenza che ci siamo fatti noi? Ma guardi, io direi sono due cose, l'intelligenza e poi i comportamenti intelligenti veri secondo l'ottica tradizionale sono proprietà degli individui, cioè ogni individuo ha una sua intelligenza, ha delle sue capacità di risolvere i problemi, eccetera, mentre l'intelligenza o la sapienza degli istinti è proprio della specie, cioè gli istinti sono uguali per tutti all'interno della specie, per cui questa è una differenza importante. Un'altra differenza importante è la velocità del cambiamento, cioè come dicevo all'inizio, gli istinti molte volte sono raffinatamente intelligenti, ma la loro evoluzione è molto lenta, mentre l'evoluzione culturale, quella che si basa sull'intelligenza degli individui, può essere molto rapida, e noi, proprio perché siamo la misura di tutte le cose, diamo molta importanza alla velocità del cambiamento. A un certo punto lei parla di 6 categorie, che sono delle categorie particolari in cui normalmente noi inseriamo gli animali: la cosiddetta antropomorfizzazione, sì, l'infantilizzazione, sì, la simbolizzazione, l'esagerazione, la cosiddetta ingegneria genetica. Ora, queste categorie, per quale motivo noi le attribuiamo così facilmente agli animali? Per quale motivo vediamo un animale e, per esempio, se un animale sta facendo qualcosa, gli attribuiamo come un pensiero umano? Guardi, credo che faccia proprio parte della nostra natura. Credo, adesso che ne sappiamo di più di neurobiologia, si potrebbe anche dire che lo facciamo perché noi possediamo i neuroni specchio, che sono quei neuroni per cui, come è stato detto in un bellissimo libro di Rizzolatti, che poi è quello che li aveva scoperti, io so quello che fai, cioè noi ci proiettiamo nell'altro, e lo facciamo anche quando quell'altro non è un altro essere umano ma un animale, per cui diciamo è quasi parte, fa parte della nostra natura mettersi nei panni di un altro o nella pelle di un altro per capire quello che fa. In questo modo noi lo umanizziamo. Questo presuppone il fatto che anche gli animali debbano avere dei neuroni specchio, perché noi Rizzolatti l'abbiamo avuto anche ospite qualche settimana fa e abbiamo parlato proprio dei neuroni specchio. Ma se noi vediamo un comportamento umano nell'animale, vuol dire che anche nel cervello dell'animale ci devono essere. Insomma, chiaramente allo stato attuale devo dire i neuroni specchio sono stati soprattutto dimostrati nelle scimmie, più nelle scimmie che nell'uomo, perché in realtà certi esperimenti con l'uomo non si possono fare e di conseguenza noi li attribuiamo all'uomo anche per omologia, per parentela, perché in realtà c'è anche chi mette in discussione che l'uomo abbia i neuroni specchi, e ce li ha assolutamente, certamente. Poi recentemente sono stati dimostrati anche in certi uccelli, probabilmente ci sono in molti altri mammiferi, però intanto non credo che sia proprio di tutti gli animali, ma è molto importante che esistano, per cui è probabile che esistano negli animali sociali, perché per gli animali sociali è molto importante mettersi in sintonia con gli altri, avere comportamenti di tipo altruistico, quel fenomeno che si chiama l'empatia, per cui è molto legato anche alla socialità. Professor Menardi, ci andiamo ad ascoltare un minutino di musica, poi torniamo in studio e rispondiamo un SMS che è appena arrivato. That all surrounding smile, I touched you once as you were leaving. You disappeared just for a while. Don't move on, I wander and search for you. Don't on. Shall I wander and wander on? Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh. Professor Menardi, siamo in fine di trasmissione. È arrivato un SMS al 333 180 94 94, ed è di Vero che dice: chi è più intelligente fra il cane e il gatto? E a me piace proprio questo SMS, proprio perché la foto del libro è proprio di un gatto e lei comincia parlando dei gatti, esatto, e finisce parlando dei gatti. Sì. Dunque guardi, la domanda è molto carina, perché io in tutto il mio libro cerco di spiegare che è impossibile fare una gerarchia delle intelligenze, perché nel corso dell'evoluzione ciascuna specie ha evoluto l'intelligenza utile per stare al mondo a quella specie, per cui sono intelligenze talmente diverse che è molto difficile poi metterle in fila, se non usando appunto quel metodo di paragonarli con la nostra intelligenza, che non è molto razionale, perché in realtà ci sono molte cose che certi animali sanno fare meglio di noi. Non so neanche se noi ci metteremmo proprio all'apice di questa ipotetica gerarchia. Tra il cane e il gatto bisogna dire che il cane è un'intelligenza molto più sociale, perché è un animale che si è evoluto dal lupo, per cui utilizza molto della socialità per risolvere i problemi, li risolve molto spesso in gruppo, chiede degli aiutini, dei suggerimenti al padrone, anche così. Il gatto ha un'intelligenza molto più autonoma, cioè se si vede un gatto di fronte a un problema, si vede che non si preoccupa di vedere quello che fanno gli altri, di copiare gli altri e cose di questo genere, ma lo affronta in un modo molto più individuale, per cui sono proprio antitetici da questo punto di vista. L'intelligenza autonoma è del gatto, l'intelligenza sociale è del cane. Professor Menardi, l'ultima domanda invece gliela voglio fare io, perché tutta questa trasmissione nasce da una mia curiosità, che è questa: come mai l'uomo, essendo un animale razionale, un animale dotato di intelligenza, molte volte compie gesti che appaiono irrazionali? Qual è la logica? La logica è che l'uomo è un animale estremamente sociale, ed è un animale dove appunto il gruppo è molto importante, e in un gruppo che funzioni bene occorre che esista anche uno spazio utile per poter credere senza usare la ragione, cioè se tutto venisse messo in discussione, questo rallenterebbe molto le azioni di un gruppo sociale. Di conseguenza, nella nostra specie, come in tutte le specie sociali in genere, c'è proprio questo spazio del saper credere per l'autorità, di chi dà l'informazione senza verificarla. Professor Menardi, io la ringrazio per aver partecipato a Calcio al Fotone, saluto i nostri ascoltatori di Calcio al Fotone e di Radio Città Fucico e come al solito vi do appuntamento a sabato prossimo, stessa radio, stesso fotone. Buona scienza a tutti, grazie ancora.